409. Cipolline agrodolci. Non è un piatto che richieda molto studio, ma solo buon gusto per poterlo dosare convenientemente. Se fatto bene, riuscirà un eccellente contorno all'esso. Per cipolline intendo quelle bianche, grosse poco più di una noce. Sbucciatele, nettatele dal superfluo e date loro una scottatura in acqua salata. Per un quantitativo di grammi 300 circa, mettete al fuoco, all'asciutto in una cazzaruola, grammi 40 di zucchero e quando è liquefatto grammi 15 di farina. Rimuovete continuamente col mestolo e quando l'intriso sarà divenuto rosso, gettateci a poco per volta 2/3 di bicchier d'acqua con aceto e lasciate bollire il liquido tanto che se si formano dei grumi si possano sciogliere tutti. Allora buttate giù le cipolline e scuotete spesso la cazzaruola, avvertendo di non toccarle col mestolo per non guastarle. Assaggiatele prima di servirle, perché se occorre zucchero o aceto siete sempre in tempo ad aggiungerli.